affreschi segreti. Al piano nobile del Palazzo del Podestà troviamo uno dei segreti meglio custoditi della città, il Salone del Podestà, lungo ben 61 metri e largo 14. Raramente infatti è permesso l'accesso, limitato a occasioni particolari come cerimonie o mostre. Era questa anticamente l'aula di giustizia dove venivano celebrati i processi. Sopra le arcate del portico c'è un ballatoio, un tempo delimitato da una ringhiera. È da questa ringhiera che i funzionari del governo annunciavano le decisioni e proclamavano le sentenze, ma a volte vi venivano eseguite anche le impiccagioni, come abbiamo appena avuto modo di scoprire. Nel corso dei secoli, persa l'originale funzione amministrativa, il salone è stato destinato agli utilizzi più disparati. Fu teatro pubblico dal 1581 al 1767, ma ancor prima addirittura campo da pallone. Ebbene sì, durante il Rinascimento il salone ospitò gli incontri indoor dell'antesignano del calcio, ovvero il gioco del pallone, noto anche come pallacorda, pallapugno o poma. Le partite all'aria aperta invece si svolgevano per consuetudine nella piazza del mercato. All'inizio del XX secolo il salone venne affrescato in stile michelangiolesco da Adolfo De Carolis e dai suoi allievi. Gli affreschi ritraevano alcuni degli episodi più significativi della storia di Bologna, tra cui la fondazione della città da parte degli Etruschi, l'occupazione dei Romani, la fondazione dell'università e la cattura di Re Enzo. Tuttavia si tratta di un vero e proprio tesoro dimenticato. Non c'è modo di ammirarli, almeno al momento. Gli affreschi sono stati infatti rimossi dalla sede originaria nel 1968, nell'ambito di un progetto delle sovrintendenze per i beni culturali che, all'epoca, finanziavano il distacco degli affreschi da chiese e palazzi con l'intento di salvarli dal degrado, da situazioni di emergenza o per farli restaurare, in quanto le tecniche per il lavoro in loco non erano ancora mature. Purtroppo, forse per mancanza di fondi, il progetto è stato gradualmente abbandonato. Ordinati, catalogati, arrotolati a rulli nelle tele adesive utilizzate per rimuovere lo strato di colori dai muri o sistemati su dei sostegni appoggiati alle pareti, gli affreschi si trovano ormai da 40 anni nel laboratorio dei restauratori, senza che la sovrintendenza si sia mai impegnata a trovare il modo per ricollocarli in sede o almeno destinarli a un museo. Per quanto sembri paradossale, sono i restauratori stessi a pagare di tasca propria per il mantenimento in sicurezza di questi capolavori dimenticati. Tra gli affreschi, uno è dedicato a Liber Paradisus, il documento con cui si sancì, a Bologna, con un anticipo di secoli rispetto al resto del mondo, l'abolizione della schiavitù.